Pensavo serie TV su quel che è stato di noi. Sarebbe Beverly Hills diretta da Tolstoi. Ho capito presto, non c'è verità. Mentono in chiesa come in pubblicità. Il tramonto è grigio qui in periferia. Dove sei? Io ti porto via. O almeno ci provo, se ci provo di nuovo. Io non sono mai stato bravo a stare fuori dai guai. Mai stato bravo a fare pace coi miei. Ci fosse una seconda chance in pratica, sai, di sicuro me la sprecherei. Non sei mai stato bravo a stare fuori dai guai. Mai stato bravo a fare pace coi tuoi. Ci fosse una seconda chance in pratica, sai, già sai. Siamo una favola italiana. Io sono Vasco, tu Alba Chiara. Amiamo in modo diverso, ma siamo uguali lo stesso. Tu aspetti il fine settimana. Io voglio fare festa a casa, ma siamo uguali lo stesso. Noi siamo uguali lo stesso. C'è un riempito di fiabe, tipo c'era una volta. Siamo anime buone, rinda una capo storta. A volte ci credo, se sai che sono sincero. Io non sono mai stato in grado di capire chi ero. Mai stato in grado di capire davvero. Potessi rimediare anche gli errori che ho fatto. Stai sicura che li rifarei? Non sei mai stata in grado di capire chi eri. Mai stata in grado di capire davvero. Potessi rimediare anche agli errori che hai fatto. Già sai. Siamo una favola italiana. Io sono Vasco, tu Alba Chiara. Amiamo in modo diverso, ma siamo uguali lo stesso. Tu aspetti il fine settimana. Io voglio fare festa a casa, ma siamo uguali lo stesso. Noi siamo uguali lo stesso. Non siamo due gocce d'acqua. Siamo due gocce di vodka. Sono le sette, scappiamo via da qua. Scappiamo via da qua. Lontani mai più, mai più. Sono le sette, scappiamo via da qua. Esce il sole, noi chiusi in macchina. Lontani mai più, mai più. Siamo una famiglia.